Fai bien po. Lento, violento, violento, violento, lento, violento, violento. Suona buono. Giornale 18. E la radio questa qui. Questa qui. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Cerchio magico. che vuoi ascoltare durante il cammino di Gigi D'Agostino. D'ora in poi ascolta ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18. Però M2O. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.com. Pom pom porom porom pom. Pom pom pro pom pom. Sì, pom. Per votare basta cliccare. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Terapia comportamentale del suono. Mi sembra buono. Mi sta trasportando. Mi sembra buono. Siento. Mi sembra buono. Mi sta trasportando. Se dico fermate. Siento. Luca Lois. Mi sta trasportando. Una luna de la vera. Di un'onda. Tempo violento, violento, violento, violento, violento, violento. Tempo violento, violento, violento, violento, violento. Tempo violento, violento, violento, violento, violento. Componenti misteriosi. L'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo domani sera, venerdì 24 febbraio 2006, ore 21, discoteca Carlo Vilazne, Smetanovo Nabrezzi 198, Novotnjolavka, località Praga 1, Repubblica Ceca. Hold on.

M2O. Come on. Musica allo stato puro, puro, puro. Da ripire sicuro. D'Agostino dal vivo sabato 25 febbraio 2006, ore 22, discoteca Palladium, via Lipova, località Most, Repubblica Ceca. Repubblica Ceca. Cannoccioline. si ripete mai, ma è bello ripeterlo. Violento, violento, violento, violento, violento. Dammi un'accelerata, va. Stai ascoltando il remix di Tarantella dell'Orso. Uomo suono. Uomo suono. Uomo suono. We'll be right back.

programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Cari amici ascoltatori, chiamate i vostri genitori. Il cammino di Gigi D'Agostino. La scienza del peccato. Stai comodo in salotto, perché io suono alle 18. Stai ascoltando il remix di Ripassa Gigi D'Agostino. Voglio creare, senza temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. Elementari come il moto di un'onda. Melodico, romantico, sinfonico. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.